La storia dei Bretti o Bruzzi, l'antico popolo della Calabria. Secondo le fonti storiche e letterarie, i Bretti rappresentarono una tribù staccatasi nel 356 a.C. dai Lucani, popolazione italica di stirpe osca che a sua volta si separò nel VI secolo a.C. dai Sanniti. I Bretti erano i ribelli e schiavi dei Lucani, abili pastori guerrieri, educatori della giovane aristocrazia lucana alla caccia e alla guerra, diretti discendenti degli Enotri, già assoggettati dai Lucani nel V secolo a.C. I Bretti giunsero ad occupare inizialmente la parte settentrionale della Calabria, coalizzandosi in una confederazione che elesse come capitale Consentia, l'attuale Cosenza, a suggello proprio di questo consenso tra le varie tribù. Da quel momento, finita la fase nomade di questo popolo, in meno di un secolo i Bretti si costituirono in numerosi insediamenti fortificati posti in posizione di controllo militare e geografico delle naturali vie di comunicazione. La loro era un'economia pastorale e agricola, coniavano monete e parlavano sia il greco che l'osco. Ben presto entrarono in contrasto con il mondo greco, conquistando numerose città della Magna Grecia, tra cui Sibari e Ipponion. I greci prima si allearono con Dionisio di Siracusa, poi con Alessandro il Molosso, che qui in Calabria trovò la morte. Al principio del III secolo a.C., il lungo assedio dei Bretti a danno delle superstiti città libere di Crotone, Locri e Reggio comportò il pagamento di pesanti tributi da parte delle stesse per assicurarsi un territorio da coltivare in sicurezza al fine di garantire l'alimentazione alla popolazione. I Bretti erano ormai riconosciuti come una piccola potenza in rapida ascesa che comandava tutta l'odierna Calabria. La loro prerogativa era quella di continuare a svilupparsi come civiltà autonoma e conquistatrice e ciò li spinse all'ostilità verso Roma quando i Romani si affacciarono ai loro confini. Nel 275 a.C. i Bretti si allearono con Pirro e vennero sconfitti dai Romani che gli imposero onerose condizioni di pace. Ma i Bretti in realtà non si sottomisero mai del tutto e, riorganizzatisi, approfittarono dell'invasione di Annibale nel 218 a.C. per allearsi contro i Romani al fine di riottenere la loro indipendenza. Quando Annibale venne sconfitto, i Romani punirono duramente i Bretti che divennero in massa schiavi e ridotti al rango di colonia. L'ultimo sussulto di indipendenza dell'indomito antico popolo calabrese fu con la rivolta servile di Spartaco, che si concluse con una sconfitta nel 71 a.C. e con l'umiliazione di non poter servire negli eserciti romani come soldati. Successivamente il loro territorio venne organizzato con quello dei Lucani nella Regio Terza Lucania et Brutti.